Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno e buona domenica ai nostri ascoltatori. Iniziamo questa nuova serie di trasmissioni, si chiama Incontri. Sono Gianfranco Fabi, sono il direttore di Radio 24 e con queste trasmissioni vogliamo salutarvi alla domenica mattina facendovi incontrare una persona, un personaggio, una personalità, qualcuno che conta nella realtà italiana, qualcuno che è importante per la sua vita ma soprattutto per la sua missione. 2001 Odissea nello spazio, così parlò Zarathustra. Questa musica vi spiegheremo dopo perché l'abbiamo messa all'inizio del nostro programma, per indicare questa persona che incontriamo oggi e che saluto. È Alessandro Azzi. Buongiorno avvocato Azzi. Buongiorno, buona giornata, buona domenica. Alessandro Azzi è presidente di Federcasse, ha 60 anni, festeggerà quest'anno i suoi 60 anni, è presidente della Banca di Credito Cooperativo del Garda di Montichiari, della Federazione Lombarda di Credito Cooperativo, ma anche della Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo. Alessandro Azzi, 60 anni portati bene, possiamo dire, 60 anni in cui ha svolto e svolge ancora, soprattutto nella seconda parte, la professione di avvocato e poi si è ritrovato anche a fare il banchiere. Ma io vorrei partire con Azzi un po' dall'inizio. Azzi è un bresciano, è di Montichiari. Cosa vuol dire essere bresciani? Ma la cultura dei bresciani probabilmente è quella di un lavoro sodo, di una responsabilità in senso lato nei confronti anche degli altri, oltre che nei confronti della propria famiglia. Vuol dire avere anche un background culturale particolarmente vicino ai valori della cattolicità e quindi della dottrina sociale della Chiesa. Quindi è una realtà, quella di Brescia, che è una realtà cattolica, una realtà bianca, una realtà in cui fin da piccoli si vive questa realtà. I suoi studi sono stati tutti bresciani? Con una parte mantovana, perché sono un bresciano di confine. Montichiari confina con la provincia di Brescia, quindi Castiglione delle Stiviere. Quindi con Mantova, quindi ha fatto poi l'università, ha fatto la maturità classica, l'università di giurisprudenza, perché almeno da piccolo voleva fare l'avvocato. Volevo fare l'avvocato, sono riuscito a farlo, ero figlio di avvocato e quindi ho sviluppato quel percorso. Che cosa le ha fatto cambiare strada? Cambiare strada, no, integrare la strada dell'avvocato con quella del banchiere. La coincidenza del fatto che a Montichiari operava una cassa rurale, mi avevano chiesto coloro che la gestivano in quegli anni un impegno di consulenza e poi anche di assistenza professionale, poi pensarono bene di invitarmi a entrare nel consiglio, perché così avrebbero anche risparmiato un po' in termini di consulenza. Io lo feci e quella parentesi, che doveva essere relativamente breve, si è prolungata molto e si è poi sviluppata anche in ulteriori impegni. In quegli anni, le ha detto, che anni erano? Metà anni 80. Metà anni 80, com'era l'Italia allora? Io, forse perché ero giovane, ricordo un'Italia particolarmente impegnata, il lavoro e le imprese avevano buone prospettive, c'era una contestazione, peraltro eravamo in una fase ormai superata, erano gli anni anche che preparavano poi la fine della Prima Repubblica. Per quanto riguarda la cassa rurale, una realtà tutto sommato piuttosto marginale, che poi invece è diventata protagonista. Ecco, la cassa rurale, non solo la cassa rurale, la sua cassa rurale, ma il sistema delle casse rurali, è una realtà che viene da lontano. Una realtà che in Italia esordisce alla fine dell'Ottocento, sulla sollecitazione di un'enciclica, la Rerum Novarum di Leone XIII, che invitava i cattolici ad impegnarsi, a darsi da fare senza attendere da altri o dall'alto le risposte. Impegnarsi anche nella gestione del credito. Quali sono stati i problemi più forti che lei ha incontrato proprio col primo impatto col sistema bancario? Ma come accennavo, le casse rurali ed artigiane erano realtà del tutto marginali. In quell'epoca la regolamentazione era molto diversa da quella attuale. Avevamo una legge che era il testo unico del 37, che sostanzialmente ci relegava ad un'operatività marginale di contorno, e quindi inevitabilmente la realtà creditizia restava marginale rispetto al contesto complessivo, che invece si era nel tempo trasformato. Quindi ecco, una situazione di forte presenza locale, territoriale, però un po' chiusa, un po' senza possibilità di espandersi. Che cosa si è potuto fare allora per rompere questi vincoli? C'è stato un ricambio generazionale in quella fase, alla fine degli anni Ottanta, e l'impegno mio e degli altri che si sono affacciati alla gestione del movimento, noi ci chiamavamo così all'epoca, è stato quello di creare un sistema. Occorreva non solo associarsi in termini di comune difesa, ma creare servizi, prodotti, cioè fabbriche che consentissero alle realtà sul territorio in prima linea di disporre di munizioni in grado di vincere la battaglia della competizione. Ecco, in questa prospettiva il primo passo è stato all'interno del sistema delle casse rurali, delle casse di credito cooperativo, oppure è stato un passo per cercare di coinvolgere questa realtà all'interno del sistema bancario, un sistema bancario che in Italia è molto diversificato, poi magari ne parleremo anche un attimo, non del tutto efficiente, che aveva bisogno lo stesso sistema bancario, che in quegli anni era stato definito una foresta pietrificata, di essere un po' rivitalizzato. I primi passi sono stati fra di noi, al nostro interno, a riscoprire un po' le motivazioni della nostra presenza, capire che c'erano prospettive di permanenza e di crescita mantenendo le nostre specificità. Vista a 20 anni di distanza da questa scelta, come la giudica? Ovviamente bene, perché la porta avanti, però vorrei sentire da lei direttamente. Credo che prima di tutto possa essere giudicata dai fatti e dai dati e dai numeri, e i numeri dicono che in questi ultimi 15 anni, soprattutto in questi ultimi mesi, ultimi anni, quelli della crisi, le nostre quote di mercato sono consistentemente, forse esponenzialmente, cresciute. Il segreto è stato quello di non percorrere la strada delle fusioni per la crescita dimensionale, ma soprattutto di puntare sulla forza della rete, cioè del collegamento e della collaborazione tra le banche del territorio. Ecco, questo anche perché la crescita italiana è stata una crescita molto territoriale, molto basata sulle piccole e medie imprese, molto basata sui distretti, e le banche, le vostre banche, hanno saputo interpretare questa crescita, hanno saputo trovare quei collegamenti con la piccola e media impresa che forse alla grande banca sarebbero stati più difficili. Io penso che il valore della relazione, e quindi della capacità di conoscere, di dialogare col cliente e di accompagnarlo nelle sue esigenze anche nel tempo, sia la principale nostra caratteristica. Ecco, guardando ancora indietro, una cosa che avrebbe voluto fare e che non ha fatto e che adesso un po' si pente di non aver fatto in quegli anni. Avrei solamente voluto accelerare i tempi per arrivare a questi anni già con un'organizzazione più efficiente. Questo forse non è stato possibile, ma tutto sommato credo che possiamo essere soddisfatti di dove siamo arrivati. Incontri. Bentornati a questa puntata di Incontri. Oggi l'incontro è con Alessandro Asti, presidente di Federcasse. E questa musica, Odissea nello spazio, l'ha scelta proprio Alessandro Asti. Perché questa musica per introdurre questa nostra conversazione? Era un film che mi aveva molto colpito, un film che, come il titolo dice, cercava di ipotizzare un futuro che allora sembrava molto lontano, poi in realtà il 2001 l'abbiamo raggiunto e superato, ma guardava al futuro nello stesso tempo partendo da una riflessione, una rivisitazione delle origini. E allora, pur senza enfasi e senza che ci sia possibilità particolare di fare un riferimento alle mie prospettive e miei impegni, tuttavia questo spazio dedicato alla riflessione, perché questa colonna sonora e questo film fanno pensare, mi è sempre parso particolarmente importante, mi ha fatto riflettere appunto. Fanno pensare soprattutto che il futuro può essere comunque, anzi deve essere costruito dalle persone, può essere dominato dall'uomo, non dobbiamo farci dominare né dagli eventi né soprattutto dalle macchine. Noi siamo protagonisti e restiamo protagonisti, e in fondo anche questo, essere protagonisti del proprio futuro, è uno dei messaggi del credito cooperativo, il messaggio di un credito che vuole essere a misura della persona, a misura degli interessi e dei valori soprattutto. Allora, un credito cooperativo che ha dei valori di fondo, quali sono questi valori? Anzitutto il primato della persona, la consapevolezza che la finanza, anche la finanza, non deve essere qualcosa gestita in un santuario, lontano dagli altri e riservato a pochi. Ma la finanza può essere qualcosa che le persone e le comunità gestiscono nell'interesse collettivo, e quindi con un impegno particolare, anche efficace, come contributo al bene comune. Ecco, c'è un passaggio nell'ultima enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI in cui si dice: se l'amore è intelligente, sa trovare anche i modi per operare secondo una previdente e giusta convenienza, come indicano in maniera significativa molte esperienze nel campo della cooperazione di credito. Quindi è un po' il fatto che il Papa, in questa sua enciclica in cui richiama la dottrina sociale della Chiesa, richiama i valori di fondo, i valori etici, i valori morali, richiama la persona, mette le banche cooperative come un esempio positivo di movimento verso questa prospettiva. Ma essere definiti protagonisti di amore intelligente è certamente una grande responsabilità, soprattutto se queste parole si leggono in un'enciclica papale. Credo che i momenti che abbiamo attraversato e la fase di crisi che ancora stiamo vivendo abbiano consentito di evidenziare in maniera particolare il buon esempio, le buone caratteristiche, le buone prospettive di una finanza responsabile come quella che noi, che siamo espressioni delle comunità, cerchiamo di gestire. Ecco, proprio su questo volevo chiederle l'ultima crisi, la crisi che stiamo purtroppo ancora vivendo, con questi risvolti molto pesanti, molto negativi sull'occupazione, viene imputata un po' all'ingordigia dei banchieri. I banchieri sono stati messi sul banco degli accusati per aver provocato la crisi. Ecco, i banchieri in un'accezione molto ampia, dai responsabili delle grandi banche d'affari americane, soprattutto in fondo anche al sistema bancario che ha messo al primo posto la finanza nell'economia con questa illusione di fare i soldi con i soldi. Ecco, forse le banche di credito cooperativo sono lontane da questa prospettiva. Senza forse. La finanza è fine a se stessa, è pericolosa. La finanza deve avere un obiettivo che è quello dello sviluppo e della crescita complessiva. Non bisogna generalizzare quando si parla di banchieri. Sicuramente occorre fare un distinguo per i banchieri del nostro paese, che non si sono comportati come i colleghi americani, e bisogna fare un distinguo anche per quanto riguarda le banche di credito cooperativo. Io penso che la crisi sia stata un po' come la bassa marea, e quindi scendendo l'acqua si è visto che cosa c'era sotto. Quando andava bene, quando l'acqua era alta, erano bravi tutti. Quando invece c'è stata la crisi, l'acqua è scesa, si è visto che cosa c'era realmente e sono apparse le differenze. Ecco, però questa crisi ha comportato degli effetti reali, è nata da problemi finanziari, ha comportato degli effetti reali, anche l'Italia è ovviamente, facendo parte del mercato globale, ha risentito e risente di questa crisi. Come vede in questa fase le prospettive non solo delle banche ma anche dell'economia italiana? Il mio angolo visuale è quello dei territori e non posso non considerare che siamo ancora in piena crisi. Ci sono alcuni segnali positivi, ma certamente i prossimi mesi saranno ancora particolarmente difficili. D'altro canto è una crisi che abbiamo importato dall'esterno e non riusciremo ad uscirne se non troveremo dall'esterno dei riscontri e degli stimoli di tipo diverso. Ecco, le imprese chiedono alle banche di essere loro vicine e le banche possono dare questa garanzia di essere vicine alle imprese e di non badare solo alla sicurezza, ma rischiare anche un po' puntando sui valori delle persone, sui valori dell'imprenditore, sulla capacità, sulla tradizione. Le banche sono spesso accusate di fare dei conti solo in base al patrimonio, si dice danno l'ombrello quando non piove, perché quando piove poi invece lo ritirano. Ecco, sono accuse che ovviamente qualche fondamento possono averlo. Che possibilità, non dico che promesse possiamo fare ai piccoli e medi imprenditori? I conti economici delle banche nel 2009 attestano che le sofferenze sono cresciute in maniera molto preoccupante. Le sofferenze sono in relazione al fatto che gli imprenditori, molti imprenditori, anche quelli piccoli, purtroppo sono andati in crisi e non riescono a restituire i prestiti. Quindi, se vogliamo, questa è una verifica che le banche si sono impegnate. Tuttavia, occorre continuare su questo percorso e qui un po' il distingue, forse anche in relazione a quelle che sono le finalità della banca, la mission aziendale. Per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, il nostro mestiere, il nostro obiettivo è quello di contribuire alla crescita dell'economia locale. I nostri padroni sono molto spesso gli stessi piccoli imprenditori che poi chiedono i prestiti e quindi è evidente che continueremo a sviluppare questo percorso. Probabilmente nel sistema bancario si è un po' andata disperdendo l'arte del banchiere, quella capacità di dialogare, di essere vicino, di accompagnare il proprio cliente, il proprio interlocutore e quindi sapere quando occorre rischiare per stargli vicino. Ecco, quindi una banca di relazione. Io le leggo un altro breve passo dell'enciclica Caritas in Veritate. Rispondere alle esigenze morali più profonde della persona ha anche importanti benefiche ricadute sul piano economico. L'economia, afferma il Papa, ha bisogno dell'etica per il suo corretto funzionamento, non di un'etica qualsiasi, bensì di un'etica amica della persona. Ecco, quest'etica amica della persona, cioè questa vicinanza ai problemi delle persone e quindi gli imprenditori e quindi gli artigiani e quindi coloro che lavorano nell'economia, è qualcosa che rispecchia la stessa missione delle banche di credito cooperativo. Sicuramente, l'enciclica dice anche che non deve esserci la politica dei due tempi, quella in cui nel primo tempo si fa business e nel secondo tempo si fa beneficenza, in maniera che così ci si salva l'anima. Invece la buona pratica è quella di riuscire a gestire l'economia e l'etica contemporaneamente e quindi sviluppare la propria attività, anche quella finanziaria, secondo una logica di condivisione delle esigenze della persona. Ecco, rispettando i parametri, perché anche le banche devono comunque, per funzionare, dover mantenere un conto economico sano e quindi mantenere quella profittabilità che fa parte dell'economia di mercato. L'economia non è filantropia, che è una bella cosa, ma è un'altra cosa. Si può gestire l'economia secondo una attenzione particolare ai valori della persona, cercando di fare il proprio profitto, il profitto dell'impresa che si gestisce, compatibilmente col profitto dell'interlocutore di riferimento. Ecco, questa è un po' la logica della cooperazione. È significativo che l'ONU abbia proclamato il 2012 come l'anno internazionale delle cooperative, un riconoscimento del modello cooperativo come uno dei fattori principali di sviluppo economico e sociale. Quindi guardiamo un po' al futuro. Che cosa vede tra 10 anni nel sistema bancario, nel sistema economico italiano? A mio giudizio, un sistema economico avanzato, moderno, di un paese avanzato e moderno come è e dovrà essere ancora l'Italia, dovrà avere la presenza nel sistema finanziario di un pluralismo di attività e di forme imprenditoriali. E quindi grandi banche, grandi gruppi che si confrontino nel nostro paese ma anche all'esterno, che lavorino soprattutto su proposte standardizzate nei confronti della loro clientela, medi gruppi e banche locali unite in rete fra di loro, che quindi lavorino soprattutto nella relazione, nel dialogo, nell'accompagnamento con le famiglie, le persone e le piccole e medie imprese. Quindi un sistema equilibrato in cui grande e piccolo abbiano ognuno la loro funzione, abbiano ognuno le loro sinergie, non si rubino il terreno a vicenda, abbiano ognuno una prospettiva e una missione propria. E in questa prospettiva qual è l'augurio che Alessandro Azzi, presidente di Federcasse, può fare al sistema bancario da una parte e all'economia italiana dall'altra? Un recupero di consapevolezza, un recupero di impegno, fiducia nel futuro e capacità di porsi con occhi nuovi di fronte alle sfide, sapendo che il nostro è un paese di grande cultura, di grandi tradizioni, di grandi capacità e che può trovare quindi al proprio interno le risposte agli sfide e gli stimoli degli anni a venire. Grazie, io ringrazio Alessandro Azzi per essere stato con noi questa mattina. Alessandro Azzi, presidente di Federcasse, abbiamo parlato delle prospettive dell'economia italiana, abbiamo parlato delle banche, abbiamo parlato delle banche di credito cooperativo che costituiscono uno degli assi portanti della realtà italiana, non solo sotto il profilo numerico, non solo sotto il profilo economico, ma soprattutto sotto il profilo dei valori, sotto il profilo della capacità di intessere l'economia di relazione, che è un'economia che può salvare appunto la realtà umana e dare alla realtà economica anche quei valori etici senza i quali, come hanno dimostrato la recente crisi, tutto può essere più fragile. Grazie ad Alessandro Azzi, grazie a quanti ci hanno seguito, ancora buona domenica.